di te. Ogni cosa che hai, ogni cosa che fai, vorrei poterti spiegare quanto sto male al pensiero che tu sei distante da me. Il tuo profumo tra le mani resterà per giorni interi, per notti infinite. Ti scriverò nel cuore con le parole piene di rancore. Amore, se il sole è dentro di me, il mare che brilla, chissà dove andrai. Se il tutto è niente, se il sole è dentro di me, il mare che brilla, chissà dove andrai. Se il tutto è niente, scrivo perché sarai la luce. Quante notti mi mancherai, ma tanto non lo saprai. Nonostante tu sia lontana, ti penso più che mai. Nonostante mi manca tutto di te, ti sento vicino a me. Il tuo profumo tra le mani resterà per giorni interi, per notti infinite. Ti scriverò nel cuore con le parole piene di rancore. Amore, se il sole è dentro di me, il mare che brilla, chissà dove andrai. Se il tutto è niente, chissà.